se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa. L'ultima seduta consigliare lì in regione, un po' di gazzarra, qualche battuta, le reazioni, insomma le polemiche che ne sono scaturite con il Movimento 5 Stelle, come commenti? Sì, io credo che sia arrivato il momento di fare un punto serio in relazione al Movimento 5 Stelle. Per quello che mi riguarda, intendo inaugurare una nuova linea, che è quella che definisco cialtroneria zero. I've been around for many a long year, so many a man's soul and faith. Fra gli emendamenti che avevano proposto e volevano discutere ce n'è uno che è una perla, anzi due. Uno, 100.000 euro di stanziamento per cambiare i fontanini della regione Campania, per mettere la ciotola per far bere i cani. Totalmente sbagliato. Anche perché i cani sanno bere, l'acqua bene. C'è qualche dirigente delle 5 Stelle, qualche webmaster che beve con il biberon, se no si sbrodola. Una idiozia totale. E sentite quest'altro. Vogliono fare una multa di 500 euro a tutti i commercianti che non danno da bere gratuitamente a tutti gli avventori. Non so se acqua minerale, acqua naturale o che diavolo devono fare, ma provate a immaginare le file, gli extracomunitari che arrivano tutti a bere le mani. Ma si può immaginare una imbecillità del genere? Le chiedo scusa per questa tirata, lei è molto paziente, ma credo si sia appassionato anche lei alle avventure delle 5 Stelle. Facciamo una pausa per la pubblicità e ci beviamo un po' d'acqua. Più che appassionato il giornalista di Lira TV, dove De Luca il venerdì fa delle interviste che andrebbero trasmesse in tutto il mondo, in tutto il mondo. Più che appassionato, sembrava un po' più, è sempre un po' più muto, nel senso che fa il reggi microfono e De Luca, Ale, avanti, dice la sua. Ci sono suoi colleghi che passano la vita a interrompere ogni 10 minuti. Appunto, invece a Lira TV. Signori, e vai con i Rolling Stone. A Pandino ci sono 7 gradi in questo lunedì, mentre ad Alpago Belluno 7 gradi, anche lì. Saluto Elena da Alpago. A Valaperta 9 gradi. Ma cos'è Valaperta? Lorenzo, c'è lavoro per te. A San Pellegrino Terme 9 gradi e nella città dello sceriffo De Luca appunto 11 gradi. Già, bravo, ascolta lunedì Lira TV, venerdì, noi non facciamo altro. 9 gradi a San Fior di Sopra nella Marca Trevigiana. Un abbraccio a Pier Giuseppe che ci informa di questi 9. Oggi è il giorno dei 7-9 gradi, ma arriva lei! Chiara da Perth, 29 gradi, signori, ci stanno ascoltando anche Down Under. E allora, 29 gradi a Perth, evviva! Valaperta, provincia di Lecco, dovremmo saperlo, è qua dalle nostre parti. Alla Certosa di Pavia, 8 gradi, a Bassano del Grappa, 12 gradi, a San Donà di Piave, 7 gradi. Caprari che cerca di anticipare, di complicare, di disimpegno. 1-1 a Pescara, signori. Speriamo che con questo imbarazzante 1-1 tutti i sogni di gloria siano riposti. I sogni di gloria vuol dire i sogni d'Europa siano tolti definitivamente. E ci rendiamo conto che siamo da settimo. Io avevo detto quest'anno sesto, settimo posto. Credo più da settimo, ottavo posto. La città della Madonnina, innamorato pazzo di lei. E lì stiamo, sereni, tranquilli, senza grandi pretese. Signori, non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo. E non la cambio nemmeno per sogno. Vabbè, questo sempre e comunque, anche in Serie D, anche in Serie D. Dobbiamo salutare, e attenzione, devo fare un annuncio. Oggi lo ascolterete, poi tra 20 giorni inizierete a dirmi: ah, Forchielli, vi scrivete, ma perché non c'è più Forchielli? Perché va negli Stati Uniti. Per 6 mesi non lo sentiremo più, purtroppo. Albertone Forchielli, ciao, come stai? Ciao Alina, come stai tu? Bene, e bene. Dopo 6 mesi chissà dove sarai, te? Sei in Albania, alla BBC. Ma sì, sicuro. Non ti trovo più. Sicuro, eh? Alla BBC sicuro. Più facile in Albania, in Albania. Dove sei tu invece? A Dubai. A Dubai? Non vuoi mica andare in qualche paese musulmano adesso? No, no, vai negli Stati Uniti. No, sono di passaggio qui per una settimana, ho delle cose da fare. Hai delle cose da fare a Dubai. Ah. Sì, truffe e verdura. Sì, sì, certo, certo. Raggiri vari. No, come raggiri vari? No, no, no, raggiri vari no. Allora Alberto, apriamo subito il Parlamento perché ci devi... Allora, hai lasciato l'Oriente. Ragazzi, se uno esce, hai lasciato un caffè, l'Oriente. Ci porti i soldi di Yong Gong Lee, no? Ci porti magari un po' di soldi, no? Ma quel che aveva Purat li ha già messi tutti. Ah, basta. Yong Gong Lee si è trasformato da cavaliere bianco a testa di legno. Ah. Adesso, ammesso che chiudano, che ancora... qualche riserva conoscendo Elliot, sì. Il povero lì è uno strumento nelle mani di questo fondo Elliot. Fondo Elliot, sì. Fondo Elliot. Stiamo parlando del Milan, forse arrivano i soldi da questo fondo americano, sì. Ammesso che chiudano, sì. È un ammesso. Fondo cosiddetto avvoltoio, sì, fondo sì. Attivista, quindi fondo che entra facendo casino. Bene. Quindi la prima bene. vittima. Prima vittima dell'avvoltoio è lì, si è messo la caparra. Bene, bene, noi abbiamo bisogno proprio di casini in questo momento al Milan, eh? Sì, sì, è proprio quello, sì, certo. Di quello di cui abbiamo bisogno. Allora, va bene, ammesso che chiudano, staremo a vedere. Intanto Alberto, te ne vai negli Stati Uniti, dove c'è, sai che viene considerato il re dei populisti ormai Trump, Donald Trump. A proposito di questi dazi che vuole mettere con l'Unione Europea, fa bene o no? Ma dunque fa bene a prendere una posizione più dura nei confronti dei rapporti commerciali con terzi, perché gli Stati Uniti hanno un deficit di 600 miliardi di dollari ormai da 40 anni, non possono continuare ad assorbire tutti i surplus del mondo. Come lo farà, come sta pensando di farlo, sarà un disastro, ma io non credo che la border tax passi, perché tutto sommato non ha la maggioranza, perché sì, è lunga la storia, vero, ma questo è vero. Aumenta il costo della vita, ossia alla fine penalizza proprio la gente che l'ha votato. Sì, però lui da lui forse ci si aspetta queste cose. È vero che è una vicenda lunga che parte anche da prima, dagli anni Ottanta, la carne americana, eccetera. Poi Obama aveva detto, ma forse Trump, proprio perché è considerato, no, il populista e protezionista. Cioè, a proposito dei populisti, anche tu, ma sembra l'era dei populisti, ma tu li vedi anche tu in maniera così negativa? Ma sai, fanno critiche giuste, però si fa presto a criticare e non propongono nulla di sostanzialmente convincente. Sì, il populismo ti porta a lanciare dei proclami, però senza fare i conti con la realtà, e alla fine fa fare grandi errori, secondo me. Faccio l'esempio di Obamacare, sì. La prima cosa che ha fatto Trump, l'ha abolita, poi dopo ha preso un'inculata dal congresso, dove in teoria aveva la maggioranza, questo gli fa saltare tutto il programma. E poi l'altra cosa dei populisti, che sono fuori tempo massimo, si annegano il valore della scienza, vogliono tornare a valori antichi non replicabili, bloccare il commercio, tornare allo Stato-Nazione, in un mondo che deve affrontare problemi globali come il global warming, la global governance, cose di questo qui. Quindi in teoria il populismo andrebbe bene se il resto del mondo dormisse, ma qui gli asiatici altro che populismo. Quindi insomma mi sembra bocciata la tua linea. Cioè, fanno dei proclami, Italia, ma non sono propositivi. Sì, però in Italia io vedo con molto favore il Movimento 5 Stelle. Ah. Perché? Sì. Perché finalmente una scorciatoia verso il default. E questo, aspetta, salvi dal default, capito? Con i 5 Stelle andiamo dritti. Aspetta, riepiloghiamo. Allora, per Alberto Forchier, tu auspichi in qualche modo che vadano al governo il Movimento 5 Stelle non perché li appoggi, ma perché così va dritti al default. Sì, e così almeno facciamo i conti senza continuare con quella litania delle bugie, delle cagate, tutte quelle storie, noi siamo grandi, noi siamo qua a spendere i soldi, pisti che boccone, a litigare con la l'Unione Europea come fa Renzi. Meglio. Io sono un carissimo amico che si chiama Gino Gironi, che insiste a non votare 5 Stelle, ma io Gino tra un po' gli tolgo il toglio, saluto. Chiede chi votare 5 Stelle. Cioè, votate 5 Stelle, così falliamo, finalmente. Sì. Esatto, e finalmente. Però continuiamo a bruciare i mobili di casa, capito? A raccontare balle, a privatizzare. Scusa Alberto, se rido, ma non è proprio come dire un invito di quelli ottimisti, cioè votateli, così falliamo finalmente. Non c'è alternativa, prima o poi falliamo. Dopo le elezioni meglio prima che dopo sì, e col 5 Stelle accade prima, di poi era meglio fallire 20 anni fa, ecco, e almeno avevamo ancora dell'attivo, invece abbiamo bruciato tutto, non abbiamo più niente da vendere, il debito è molto più grande. Succede sempre così quando le aziende falliscono. È stato meglio fare un concordato 20 anni prima. Ma perché non ti candidi tu invece di far votare? Perché sai che molti dicono candidati, dai, noi ti sosteniamo. E lunedì mattina alle 8 prende Frecciarossa per andare a Roma. Beh. In commissione con Razzi, magari. Con Razzi, non lo so. Sì. È una cosa avvilente. Lo stile di vita sarebbe uno scale down per me, ma poi per andare a chiacchierare con quelli caoni, mi tocca mettermi la cravatta. Capito? Mi tocca star lì seduto. No, ma soprattutto diciamolo francamente, perché lo tuo stile di vita con lo stipendio misero da parlamentare, si abbatterebbe in una maniera devastante. No, guarda, io adesso ti mando la foto, sì, te la faccio, come sono mentre sto facendo l'intervista. Ah, va bene, tu comincia a farla, che poi durante il traffico arriva. Durante il traffico che io facessi cambio per andare in una roba, in una bolgia romana dove non si conclude mai regolarmente un cazzo. L'unico lavoro che potrei prendere a Roma è quello del tipografo alla Gazzetta Ufficiale. Il tipografo? Allora lì sì che fai. Perché? Perché quando fatto le leggi scrivi cazzo che ti pare a te. Cioè, ma mica le cambiano, però il tipografo mica può cambiarle. Sì, le cambiano. Passaggio dal Consiglio dei Ministri alla Gazzetta Ufficiale le cambiano. Allora fai così, andiamo al traffico, tu facci una bella foto e mandala, mettila su Twitter, così noi la ritwittiamo in questi 2 minuti, un minuto del traffico, così ci fai vedere come sei a Dubai e vediamo se farai a cambio o meno con una bella candidatura. Aspetta che devo chiamare l'auspicio. beekeeping per farmela, perché non riesco a... Chi è che devi adesso, chi è che devi... A fine trasmissione, se no... Ah, va bene, a fine trasmissione, giusto, giusto. Se no cade la linea. Stai lì che tra poco parliamo di Renzi. Renzi che ha trionfato alle primarie. C'è cosa più stupenda di in questo paese del PD, di quelli del PD che contestano i voti all'interno del partito del PD? Ma ragazzi, è fantastico. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero. Fidati di un esperto. Vi presenta... Scusate, ma com'è che non si parla più della legge elettorale? Che cosa è successo? Oh Maria, abbi pazienza, sono anacleto. Mi viene due palle, due ordini a sentiti di 4.0. Spiegami che cos'è questo 4.0, perché se no mi mandi al manicomio. Ciao. Matteo Renzi sia la persona che è in grado di portare avanti un progetto di riforme vere, profonde, di cambiamento per il Paese, sia l'unica persona forte in grado di battere il Movimento 5 Stelle, di battere Salvini, di battere il centrodestra. È tornata Maria Elena Boschi in TV da Maria Latella. Allora, dice che Renzi è l'unico che può battere il 5 Stelle, ma qui con Alberto Forchielli siamo a capire che invece il 5 Stelle per lui dovrebbe andare al potere per far fallire l'Italia in fretta, in frettissima, subito, finalmente. Allora, Albertone, da Dubai, hai visto che Renzi praticamente ha stravinto il primo giro di primarie? Bene, no? Che dici? Ma fanno a puffa di tarocco quelle primarie ormai. Sì? Eccolo lì. Guarda, al di là delle primarie, Renzi è stato uno dei peggiori presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana dopo guerra. Ah. A parte Mussolini, era meglio Sonnino, sì. Crispi. Ha fatto lievitare il rapporto debito-PIL, quindi io tutte queste politiche. Ha fatto una riforma costituzionale obbrobriosa che si è rivelata, fra l'altro, un enorme errore di calcolo politico. Ha fatto una legge elettorale che è stata distrutta dalla Consulta, sì. E adesso si è ammessi con un proporzionale peggio di 30 anni fa e non credo che riusciremo a ricambiarla in tempo per le prossime elezioni. Un disastro. Ha spaccato il PD, ha sempre solo raccontato palle. Io adesso, dimmi onestamente, se fossi un manager, capito, di una qualunque... qualunque roba, anche se fosse un amministratore di condominio, sarebbe licenziato. Quindi dice, non ne ha beccata una. Non ne ha beccata una. Guarda come siamo messi. Eppure insomma, ormai è chiaro che tornerà a capo del PD e poi sarà... Ormai la sfida prossima sarà Renzi e 5 Stelle. Dai, ormai è abbastanza chiaro. Cioè PD, 5 Stelle. Questo è. Oh, a meno che non c'è un effetto democrazia cristiana come c'era una volta. Democrazia cristiana. Tutti votavano un DC perché avevano paura di Baffone. Non dovrebbe farcela. Negli anni 70 c'è paura dei comunisti, per cui... Capito, ma tu quello che auspichi è proprio quello che non ce la faccia perché vada al 5 Stelle per fallire subito. E quindi, no, vabbè, se un altro Renzi non me lo regalate, no, basta. Quelle palle lì, sì, siamo tornati numero uno al mondo. Cosa ti regali? La ripresa, basta. Chi ti regaliamo? Berlusconi, hai visto che te lo faccio sentire Berlusconi, che è tornato, è andato dalla Merkel, sentilo qua Berlusconi. Noi corriamo le elezioni per vincere e quindi se Berlusconi, come penso, potrà essere in campo, non ci sono difficoltà a vincere, sono sicuro del risultato. Ragazzi, ormai parla sempre e solo di sé in terza persona, se Berlusconi, ma sei tu, sei Berlusconi, solo di sé in terza persona. E poi con questa voce stanchissima, la voce proprio, vabbè, Alberto, è andato anche dalla Merkel, è tornato il Berlusconi. Beh sì, è andato dalla Merkel per finalmente chiarire che lui... non ha mai usato il termine culone inchiavabile, sì, quel famoso termine che gli è stato ingiustamente attribuito, no? Sì. D'altro canto, Berlusconi, Forza Italia, secondo i sondaggi, Forza Italia e PD fanno il 39%, non arriva mai al 51%. No, ma 50, no, no, no, no, quello, certo quello. Che la Merkel ha fatto carriera. La Merkel? Beh, primi contro Berlusconi che vedeva della cronica vabile, poi Trump che non le stringe la mano, ma non è che la prossima volta Putin le fa trovare una tigre siberiana al posto del cane, le mette una fetta di prosciutto in tasca e poi fa entrare la tigre siberiana, eh? Non lo so, no, anche no. Lei ha paura dei cani e Putin sì, le fa sì, entrare, sì. Se la Merkel una tigre siberiana, no, speriamo di no, sì, no. Sì. Una bella fetta di prosciutto in tasca, sai che lei ha paura dei cani, se le volte che arriva Putin fa entrare i due cani. Con lei la faccia terrorizzata, poveretta, quanto soffrire. Vabbè, vedremo alle prossime elezioni. Però insomma, io ti voglio chiedere, visto che tu hai scritto un libro invitando i giovani a espatriare, andare all'estero, a cercare nuovi orizzonti, nuove vite, eccetera. Qui invece abbiamo il ministro del lavoro, l'avrai sentito, Poletti, quello che dice che bisogna trovare il lavoro, servono le relazioni, il calcetto, no? Ha detto sì, una verità, forse doveva dire purtroppo siamo un paese così, invece lui ha detto no, no, ragazzi. Insomma, No, ha detto due grandi verità. La prima, che mandare i curriculum non serve più, ossia io ne ricevo 10 al giorno, cioè non so neanche a chi mandarli, a inoltrarli, perché poi intaso tutta l'azienda, no? Per cui devo dire che nel 78, quando io mi laureai in economia e commercio a Bologna, mi scrisse la Fiat, mi scrisse il Credito Italiano, cioè ti cercavano l'aziende, la Procter & Gamble, si è molto cambiato e quindi sotto questo aspetto ho detto una verità, i CV la gente neanche li apre più. Sì. Vabbè, ci sono dei programmi che li leggono se uno ha cose particolari, no? Sì, però un ministro del lavoro, un ministro del lavoro non dovrebbe dire, cioè, puntate al merito. Poi ha detto un'altra grande verità, capito? Lui è un uomo che ha fatto carriera molto relationship driven nell'ambito delle cooperative, andando su verso la Lega delle cooperative, quindi ha detto ragazzi la carriera si fa relazioni per relazione, capito? Quel po' di misera carriera, ma la verità vera è che i lavori qualificanti per i laureati in Italia non ci sono più. E quindi all'estero, perché non ci sono più le aziende di livello, quelle che sono state comprate dagli stranieri, il quartier generale è stato spostato fuori dall'Italia, sì. Per cui lavori importanti non girano più in Italia. E quindi bisogna andare all'estero. Insomma, quindi è un uomo sincero, che dice le verità, senza peli sulla lingua, che ti piaccia o che non ti piaccia. Poi, poi magari io mi aspetto che anche la prossima volta Poletti... Non è che la prossima volta ci dice che di mandare i figli a lezione di buracco, non so, anche quello è un'idea. Non lo so, magari. Albertone, tu adesso te ne vai e noi per 6 mesi che facciamo? Sì. Per 6 mesi sopravvivere senza di me. Sì, beh, no, se quello sì. Non ti mollo, Che tu vada in Albania, che tu vada in Moldavia, che tu vada... io mai non mi molli, va bene. Allora, no, Albertone, io... va bene, non mollarmi. Intanto un grande abbraccio. Se mi fai delle trasmissioni che sono compatibili col fuso americano, piatto ricco, mi ci fico. Va bene, allora ci penso. Intanto ti mando un abbraccione, ovviamente goditi gli Stati Uniti e goditi Trump e ci ritroviamo, chissà, tra 6 mesi. Intanto un abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, padiglione 3, trentodoc.com. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, mentre siete rallentati nelle vostre colazioni, nei vostri letti ancora sfatti, oppure che ne so, invece siete già in pista da un bel pezzo, ricordate che la settimana decisiva numero 205, la 205ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, è già ben che cominciata. E allora forza, dai, questo è lo spazio della rassegna stampa di 24 Mattino. Leggiamo i giornali con voi, insieme a voi, per voi. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppi! Lunedì 3 aprile per l'appunto. Allora, i titoli: l'apertura del Sole 24 Ore, sconti e prestiti dalle casse per i giovani professionisti. Sono le misure di welfare introdotte dagli enti di previdenza per sostenere 150.000 colleghi under 35. C'è però anche, e lo vedremo tra poco, l'abbiamo sentita anche nel giornale radio, l'inchiesta del Sole 24 Ore sulla lavatrice mondiale di denaro, di riciclo di denaro, vale a dire Londra. Poi l'apertura del Corriere della Sera internazionale, Nord Corea, lo stop di Trump. Agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang. Per la stampa invece lo scontro sulle tasse locali, di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa. Boschi gela i comuni, il governo non vi deve dare nulla. Poi l'apertura di cronaca di vari quotidiani, e da qui tra poco partirò ad approfondire la vicenda di Budrio, barista ucciso per rapina, un killer senza pietà. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. Il Giorno invece: senza difesa, caccia al killer del barista ammazzato a Budrio durante una rapina. Per il Giornale: Far West di Stato, emergenza rapine, la politica non garantisce la legittima difesa. Per Libero: i criminali vincono ancora, rapinatore uccide un barista vicino a Bologna. Il Messaggero: l'intervista al ministro della famiglia Costa, legittima difesa, ora si cambi. Il Fatto Quotidiano invece si concentra sulla vittoria di Renzi alle primarie nel primo turno, nasce il PDR, partito di Renzi. Ma appunto questa vicenda di Budrio. Sabato sera, la cronaca oggi racconta, leggo per esempio Giusy Fasano a pagina 8 del Corriere della Sera, quello che è successo a Budrio. È successa una lotta furibonda tra due uomini e tre colpi d'arma da fuoco che interrompono il silenzio di questo posto nel nulla, nelle campagne. Sono quasi le 10 di sabato sera, nella frazione Riccardina a Budrio succede un fatto da cui non si torna più indietro. Un rapinatore armato di un fucile da caccia che entra nel bar Gallo, il solo nella zona, e chiede i soldi al proprietario che sta dietro al bancone, Davide Fabbri, 52 anni. Lui reagisce, afferra la canna del fucile, la sposta di lato e parte il primo colpo. Qualcuno dei pallini finisce nella gamba di uno dei due clienti del bar, un signore anziano che poi sarà medicato, mandato a casa con ferite lievi. La lotta continua per un tempo che sembra infinito. Davide quasi sfila il fucile dalle mani dei rapinatori e quello reagisce sempre peggio. I due si azzuffano. Parte un secondo colpo che raggiunge una vetrata. La telecamera di sorveglianza montata nel locale mostra la colluttazione che si sposta fino a uscire dalla scena. È perché i due sono ormai in fondo al bar, si spostano in un passaggio che porta nel negozio di alimentari accanto dello stesso proprietario. Da lì arrivano fino alla piccola cucina collegata al negozio ed è lì che succede il peggio. Davide non può sapere che quell'uomo ha in tasca una pistola. Probabilmente sta per avere la meglio quando l'altro prende l'arma, gliela punta al petto e spara. Davide muore praticamente subito, mentre la moglie, allarmata dai rumori, scende con una scopa in mano per vedere cosa sta succedendo. L'uomo la nota, le si avvicina, le punta la pistola alla gola e lei grida: «Vuoi ammazzare anche me?». Lui corre via e le immagini registrate lo riprendono mentre ripassa dal bar per uscire e lo registrano una terza volta mentre torna indietro, perché deve scappare ma ha abbastanza sangue freddo per tornare e prendere il fucile dimenticato per terra. Questa in sintesi la dinamica. Ovviamente sono partite subito le polemiche, le solite questioni, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana quando ne abbiamo parlato, qui di legittima difesa. Tutte le volte c'è un fatto di cronaca che rianima il dibattito. Secondo il Giorno si cerca uno straniero. Perché uno straniero? Perché la descrizione sarebbe compatibile con quello che ha fatto una guardia giurata alla quale è stata rubata una pistola qualche giorno fa. Probabilmente, se fosse la stessa persona, la pistola che ha ucciso questo barista. Questa guardia giurata che ha raccontato questa rapina di uno che gli ha puntato un fucile alla gola e gli ha detto dammi la pistola, racconta probabilmente di un rapinatore con l'accento dell'est, però al momento non si sa molto di più. Il ministro alla difesa, scusate, il ministro alla famiglia Enrico Costa, che è stato anche vice ministro della giustizia, dice in un'intervista al Messaggero: sulla legittima difesa vorrà la legge, è da riscrivere. Il ministro della famiglia, degli affari regionali: basta ambiguità giurisprudenziale, aumentano gli episodi di violenza, il cittadino deve sapere cosa può fare. Un tempo esisteva il cosiddetto topo d'appartamento, dice lui, intervistato da Sara Menafra sul Messaggero a pagina 3. Che entrava, il topo d'appartamento, quando sapeva che le persone erano fuori. Oggi ci sono vere e proprie bande che entrano nelle abitazioni sapendo che gli inquilini sono all'interno e agiscono per renderli inoffensivi. Assistiamo alla costante trasformazione dei furti in rapine. E la prova di quel che dico sta nel fatto che se chiediamo al cittadino comune se i furti siano aumentati o diminuiti, quasi tutti parleranno di numeri in crescita. Invece i numeri sono sì in diminuzione, ma spesso la dinamica pesa molto di più sui cittadini. Cambia la percezione. Ecco, il ministro Costa punta su questo aspetto, cioè i numeri. E guardate che oggi il Corriere della Sera li mette a pagina 9, sono numeri dell'Istat. I numeri dicono che sono in diminuzione questo tipo di episodi, in diminuzione le rapine. Però, visto che avvengono con queste modalità cruente, la percezione degli italiani è invece che siano in grande aumento. Quali sono i numeri? Ogni giorno in Italia 14 rapine a mano armata, bar e negozi nel mirino. Pagina 9 del Corriere, Alessandro Fulloni. Bar e negozi presi d'assalto. L'ultimo dato Istat è più che eloquente. Nel 2015 sono state 5.337 le rapine a queste attività commerciali. Una media di 14 al giorno, in pratica una ogni due ore scarse. E soltanto nel 41% dei casi le forze dell'ordine individuano il responsabile, quindi meno di un caso su due. I reati sono comunque in calo, visto che nei 12 mesi precedenti le rapine erano state assai di più, ovvero 6.176. I numeri ufficiali, quelli provenienti da Carabinieri, Finanza e Polizia ed elaborati dall'Istat, dicono proprio questo. Nel 2016 i reati raccolti nel contenitore più vasto dei crimini predatori, sono, secondo le questure, sono quindi in diminuzione, opposta alla percezione di Confesercenti, ma i numeri sono numeri, che vede più di un negoziante su due segnalare furti o rapine nei pubblici esercizi nelle vicinanze della propria attività. Vabbè, ovviamente il dibattito ripartirà. Dicevo, a proposito di soldi, questo è un altro tipo di rapina, se volete, ma abbiamo sentito anche nel giornale radio Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi oggi firmano un'inchiesta sul Sole 24 Ore. Benvenuti a Londra, lavatrice mondiale del denaro sporco. Le acque del Tamigi portano via i timori dei riciclatori di tutto il mondo. Per loro la Brexit è solo una parola, perché l'uscita del mercato europeo non tocca la più grande lavanderia mondiale di denaro sporco, vale a dire Londra. Sono dati della National Crime Agency, l'agenzia contro il crimine organizzato del Regno Unito, secondo la quale vengono riciclati ogni anno tra i 36 e i 90 miliardi di sterline, cioè tra i 42 e i 105 miliardi di euro. Sono dal 2 al 5% del prodotto interno lordo britannico, pari a 1.800 miliardi di pound. E la gran parte di questo riciclo è proprio a Londra, dove vengono investiti nell'industria finanziaria, nel mercato immobiliare delle abitazioni di lusso. In pratica ogni giorno vengono immessi nella piazza finanziaria londinese 38,8 milioni di euro, di cui è impossibile stabilire con certezza la tracciabilità. Ecco perché sul Sole 24 Ore in prima pagina Londra è la capitale mondiale del riciclaggio. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. Siamo all'articolo da mani sul volante, se siete alla guida. Siamo all'ennesimo cambio di casacca. politici. Stefania Piras racconta, pagina 7 del Messaggero, siamo al record in cambiamenti in Parlamento anche per via dell'addio all'Italicum, come tanti si giocano l'ultima carta per riconquistare il seggio. Insomma, l'effetto proporzionale ha portato per ora a 458 cambi di casacca in questa legislatura. 458, alcuni hanno fatto più cambi di casacca, il record. L'ultimo ripensamento fresco di giorni è quello del milanese Giovanni Mottola, che ha lasciato il gruppo ALA, aderito a Alternativa Popolare, cioè Alfano. Sono correnti che diventano fiumiciattoli, manipoli di parlamentari che si organizzano in reparti compatti. Tutto questo è l'effetto del proporzionale, i cambi di casacca, boom, il nuovo record, 458 Ale. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan. Usena mascisha menin, se non ha mascina ne shumushen. Dell'informazione. Ah, chiarissimo. Questo è uno dei migliori perché è da 10 giorni che sto cercando di decifrarlo e va benissimo così. Allora, signori, la politica, il Partito Democratico fa registrare la chiusura del primo round del congresso, quello tra gli iscritti, con i risultati che vedono Renzi al 68,22% con 141.245 preferenze, Orlando al 25,42%, Emiliano al 6,36%. Dunque Emiliano che supera la quota del 5%, che era quella necessaria per andare al round popolare. E è straordinario. Sapete che in Italia si contestano i voti quando ci sono le elezioni politiche, amministrative, eccetera. Qui c'è la contestazione dei voti da parte di esponenti del Partito Democratico che non si fidano neanche del proprio partito. E beh, questo è il meglio del meglio. Ovviamente in maniera ironica lo dico, Renzi doppia Orlando, guerra degli sconfitti sui dati, sentite Emiliano, falsi, il partito è fazioso. Questo per dire il clima, ecco, se tanto mi dà tanto, chissà al secondo turno, quello popolare, quando voteranno i cittadini. Comunque Maria Teresa Meli firma il consueto retroscena sul Corriere della Sera per cercare di capire gli umori a casa Renzi, e gli umori sono questi. Non riescono a fare un discorso, si rivolge agli scissionisti Renzi, senza pronunciare il mio nome per attaccarmi. Alcuni come Massimo D'Alema hanno un solo obiettivo, farmi fuori. E poi i risultati sono incredibili, vanno oltre le nostre migliori previsioni, dice ai collaboratori Matteo Renzi. Loro erano convinti di andare molto meglio, loro sono Andrea Orlando, così non è stato e hanno preso una bottarella. Perciò in questi giorni hanno dato segnali di nervosismo, ma stimo Andrea, sono convinto che si possa lavorare tutti insieme. E poi l'ironia su Emiliano, certo il suo risultato non è granché. Questo Matteo Renzi, la ripartenza del leader che sugli scissionisti dice vogliono solo farmi fuori, è il titolo del Corriere della Sera, pagina 3. Tra l'altro si annuncia che c'è un libro di Renzi pronto dopo il 30 aprile per Feltrinelli. Renzi uscirà con un libro. Va bene, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle invece è considerato da tutti i sondaggi come il partito che contenderà in qualche modo al Partito Democratico la vittoria alle prossime politiche. C'è da registrare un intervento di Davide Casaleggio, è un intervento scritto sul Corriere della Sera a pagina 6, è il titolo... il titolo è questo: noi del Movimento 5 Stelle siamo come Netflix, il candidato premier, in autunno il nome. Davide Casaleggio interviene con questa lettera al Corriere della Sera perché racconta l'8 aprile a Ivrea, quando ci sarà la commemorazione per ricordare a un anno dalla scomparsa il padre Gian Roberto Casaleggio. La parte interessante, quella politica, è questa, di questa paginata. Il Movimento 5 Stelle, scrive Davide Casaleggio, è attualmente l'unica forza politica italiana che si preoccupa di programmare l'attività di governo e che proporrà gli elettori alle prossime politiche, ed è l'unica forza politica al mondo a farlo in modo partecipato in rete, consentendo a ogni singolo iscritto di contare e dire la sua. Molti commentatori si sorprendono del fatto che ormai nei sondaggi il movimento goda della fiducia di un terzo degli elettori, in particolare dei giovani, dove arriva circa il 50%, e se anche i sedicenni avessero diritto al voto, come penso sarebbe giusto, la percentuale sarebbe ancora più alta. Forse dovrebbero soffermarsi a capire come funziona il nostro sistema, come funziona quello dei partiti, che ormai non sta più in piedi neppure economicamente. Noi garantiamo un servizio migliore, siamo più efficienti nel portare le istanze dei cittadini dentro le istituzioni. Insomma, usa questo paragone, per rimanere in tema digitale, la vecchia partitocrazia è come Blockbuster, noi siamo come Netflix. Il futuro è nella rete, nella partecipazione, siamo coscienti degli oneri che derivano dall'avere questa prospettiva. Il movimento, come già detto, presenterà la sua squadra di governo prima del voto, che ci auguriamo sia fissato il prima possibile, e dà anche una data a Casaleggio. Contiamo di poter presentare ufficialmente assieme al programma completo la prossima edizione di Italia 5 Stelle, che si terrà quest'autunno, anche il candidato premier. Dunque si saprà in anticipo con tutta la squadra di governo. Questo racconta Davide Casaleggio in questa lettera al Corriere della Sera. C'è anche la diatriba che continua sulla questione magistrati e politica. Soprattutto è il neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato dei magistrati, Eugenio Albamonte, che sostituisce Pier Camillo Davigo, e che in un'intervista a Repubblica sul tema magistrati in politica esordisce con un paradosso. Attenti ai paradossi, intervistato da Liana Milella, pagina 4. Il paradosso è questo: fuori i magistrati dal Parlamento e dentro il Parlamento invece i condannati. Il neopresidente dell'ANM Albamonte annuncia che il sindacato delle toghe metterà sotto i riflettori la legge su toghe e politica. Se ostacolasse le candidature dei giudici sarebbe incostituzionale. Bisogna sgombrare il campo da vicende contingenti. In questi giorni la questione è stata usata come una clava, da una parte per difendere Minzolini dalle conseguenze della condanna, dall'altra per contrastare una corsa alle primarie. Il tema importante per la democrazia va trattato senza sovraccarichi emotivi. L'ANM lavorerà a breve a un parere articolato sulla legge, informa il suo neo segretario, ma un sistema che ostacoli troppo l'accesso alla candidatura o il rientro in ruolo alla fine del mandato lederebbe il diritto costituzionale del magistrato in quanto cittadino all'elettorato passivo, arrivando all'assurdo per cui proprio il magistrato non potrebbe andare a far parte di un'assemblea parlamentare nella quale invece possono rimanere condannati definitivi con sentenza passata in giudicato. Allude a Minzolini, presidente? Ferma la legittima decisione del Senato di mantenerlo in carica? Essa risulta davvero stridente con il divieto di accesso allo stesso Senato per uno di noi, sia esso formale o di fatto imposto. Ecco qui il paradosso, dice il neopresidente dell'ANM, attenzione a tenere fuori i magistrati dal Parlamento e lasciare invece in Parlamento delle persone condannate in via definitiva. Allora, è stata una domenica di passione anticipata. Noi fortunatamente con questo pareggio sciagurato a Pescara abbiamo giustamente, e sono felice, abbandonato ogni pretesa di andare in Europa, rimanendo al nostro settimo, tranquillo, sereno, senza patemi d'animo posto, il posto che ci compete, insomma forse anche l'ottavo sarebbe più insomma una fotografia giusta della nostra squadra. Ma intanto, facendoti tanti auguri per un buon lunedì, caro Mauro Meazza, tocca a voi. Oh, ma caro Alessandro, grazie, vedo proprio ho sentito degli auguri di cuore, di cuore, di cuore rossonero, direi. Oh, allora guarda, anche questa vicenda di occorsati ieri verrà evocata negli endecasillabi del lunedì che sto per andare a declamare, che tu sia d'accordo oppure no. Già alcuni temi tu li hai evocati, come ad esempio l'inchiesta sul riciclaggio del denaro sporco a Londra, altro sentirai adesso negli abituali endecasillabi. Vado a declamare. Vada. Vedi le casse dei professionisti, dei giovani si danno grande affare offrendo aiuti, asili e sconti misti e tutto quello che chiamano welfare. Però un'altra incertezza si fa viva. Mancano i voucher per i lavoretti. Il sole spiega quale alternativa si può te usare per essere corretti. Intanto venne aprile e te lo disse quel gran poeta che è un crudele mese. Traballan già le accise non più fisse, su alcol e tabacchi ci son spese. Ma voi tenete fermo il bello dire che troverete in norme e nell'esperto, come ogni lunedì si va a chiarire lo fisco e il condominio nell'inserto. Contammo poi con cura le agenzie che Europa ha aperto ormai in tutti i paesi per ragionar di banche e farmacie, son già 45 noi compresi. Ma non vorrei turbarti, caro Alino, ormai parlar d'Europa è un po' pleonastico. Guardiamo avanti al derby di Pechino. Fai il closing dei giornali, tocca al traffico. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Alessandro Milan, il bambolino dell'informazione, e lo dico con grazia e gentilezza. E va bene, allora, alle 7:47 minuti siamo qui, cari ascoltatori, ancora qualche articolo dai giornali. Che simpatico è però Mauro Meazza e su Endeca Sillabi, eh? Pensavo di mettergli una micetta nei pantaloni oggi, quando lo incontro al bar, così, così, di soppiatto. Allora, sapete che c'è una grande discussione per quel che riguarda le spese detraibili, cioè i bonus fiscali, le tax expenditures, come volete chiamarle, agevolazioni fiscali, dai, così ci capiamo. Sono 444 in Italia, sono state censite, sono anche in leggero aumento, e allora si cerca di capire come rivederle in base al ricometro, per esempio, fa sapere Lorenzo Salvia a pagina 17 del Corriere della Sera, perché spesso queste agevolazioni fiscali non solo sono ovviamente rivolte anche ai cosiddetti ricchi, ma anzi spesso in media detraggono più dei poveri, per usare un paradosso, e quindi sono soprattutto loro a beneficiare degli sconti fiscali, con tanti saluti da un sistema fiscale che dovrebbe essere progressivo. Dunque l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha sottolineato che sugli sconti fiscali la quota di beneficiari risulta relativamente più alta tra le classi di reddito superiori. Un esempio: in caso di divorzio, l'agevolazione sull'assegno al coniuge vale in media lo 0,07% del reddito per chi dichiara oltre 26.000 euro lordi l'anno, mentre chi è al di sotto dei 26.000 euro, per lui il peso dello sconto è lo 0,01%, 7 volte di meno, una contraddizione più volte sottolineata. Allora, come si vuole modificare queste agevolazioni fiscali? Secondo Repubblica, salto dunque su Repubblica, Roberto Petrini a pagina 11, far passare le spese detraibili dal 19 al 18%, cioè tutti gli oneri detraibili al 19%, farli scendere al 18%. Questa è una delle ipotesi allo studio. Quali sono gli oneri detraibili al 19%? Gli interessi mutui ipotecari, abitazione principale, gli interessi mutui ricupero edilizio, le assicurazioni sulla vita, le spese di costi di istruzione, le spese funebri, le spese per addetti e assistenza al personale, le spese di attività sportive dei ragazzi, l'erogazione a favore delle onlus. Alcune, queste qui, sono detraibili al 19%, l'ipotesi è portarla al 18%. Però qualcuno dice che sotto elezioni non si possono toccare tutte le questioni legate alla casa e alla sanità e alla salute, perché si perderebbe troppo. Insomma, staremo a vedere, sono tutte ipotesi allo studio, bisogna capire e attendere. Intanto c'è nella diatriba tra comuni e governo, portata alla luce dal sindaco di Torino Chiara Appendino, che qualche giorno fa ha detto il comune di Torino deve ottenere 60 milioni per un vecchio contenzioso sull'IMU, trasformata poi sull'IMU che ha sostituito l'ICI e poi ancora la TASI, eccetera. Era una vecchia questione di scontro, di contesa, che riguarda i mancati versamenti, secondo Chiara Appendino, dello Stato ai comuni nel passaggio dall'ICI all'IMU alla TASI. E beh, ieri il ministro Boschi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Boschi, ha detto Roma non deve altri soldi ai comuni. È una pietra tombale. La sindaca sa bene che quei soldi non sono dovuti. C'è un accordo con l'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni, che sana tutto. Ed ecco allora che la stampa mette a pagina 2-3 questa vicenda e a pagina 3 racconta di come a questo punto la rivolta delle varie città porterà probabilmente a ricorsi per centinaia di milioni sugli errati calcoli dell'IMU. Si andrà a vie legali? Staremo a vedere. Secondo il ministro Boschi in realtà non deve nulla il governo centrale al comune di Torino e anche evidentemente agli altri comuni, e dunque questo porterà a uno scontro sicuramente. Ho qualche notizia di cronaca, ve la voglio dare qua e là. Intanto c'è la battaglia di Pasqua nell'outlet di Serravalle Scrivia, uno dei più importanti outlet dove 5 milioni di persone da tutto il mondo vanno a fare shopping. Perché a Serravalle Scrivia i dipendenti dicono: questa volta vogliamo fare le ferie. O ci date le vacanze o bloccheremo le auto. È un po' la versione, come dire, aggiornata del solito dibattito sul lavorare per chi lavora magari in alcuni settori come nello shopping, nella grande distribuzione, lavorare nel weekend, in special modo nella domenica. Tra l'altro la cosa curiosa è che questa volta c'è il parroco che non capisce questo tipo di protesta. Dice: ormai la domenica lavorano sempre, perché protestare solo ora? Cioè, in 2000 anni l'idea di santificare la festa non è stata molto seguita, quindi non si capisce perché adesso. Ho una consolazione invece per tutte le mamme, soprattutto le neomamme. Ne conosco una, Silvia, a cui mando un grosso abbraccio, anche oggi è pure il suo compleanno, quindi grandi auguri. Allora, le neomamme italiane che sappiano e si consolino a sapere che piagnoni in Italia si nasce. Quindi se il vostro bambino o bambina piange tanto, in media due ore al giorno, sappiate che è normale. È il pianto parossistico, lo dice il The Journal of Pediatrics, cioè il giornale dei pediatri, insomma della pediatria mondiale. Piagnoni si nasce. In Canada piangono più di noi, nel Regno Unito anche, ma siamo al terzo posto tra i paesi dove si piange di più. E quindi già dalla nascita siamo segnati, piagnoni, tranquilli. È normale, mamme, è normale, papà. Siamo piagnoni fin dalla nascita. Se vi volete consolare, no, non c'è un'associazione tra le due cose, però mi ha colpito questo dato, sappiate che in Italia ci sono 300.000 tessere staccate dei locali per scambisti. Anzi, per la precisione, sono 270.000 in tutta Italia. Un'inchiesta del secolo XIX, i giochi di coppia all'italiana, sappiate che 270.000 italiani hanno la tessera di locali per scambisti. Lo faccio vedere anche sulla pagina Facebook mia, dove siamo in diretta in questo momento, e a lei. Va bene, siamo invece alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qua, siamo su Libero, che racconta perché ieri Filippo Facci ha fatto a botte in uno studio televisivo con l'avvocato di Cicciolina. Ma chi se ne frega!